Buonasera, innanzitutto c'è un po' di emozione perché allora abbiamo pensato di fare questa serata un po' inusuale per il posto come Conchetta, che ringrazio tutta Conchetta veramente e anche tutti voi di essere qua, perché qualche anno fa, per tra le varie iniziative contro per lottare contro uno sgombero a Bologna, un centro sociale che si chiamava La Ba, è nata questo esperimento che si chiama La Lirica al Popolo. La Lirica al Popolo ci porta in qualche modo a riportare, scusate il gioco di parole, dentro luoghi non d'élite, un'arte che in questo momento invece, in questi decenni, in questo secolo, è invece un'arte d'élite, cioè l'opera lirica. L'opera lirica adesso la si vede quasi esclusivamente all'interno dei teatri, di teatri blasonati, in spettacoli assolutamente sicuramente bellissimi, però che spesso non sono alla portata delle tasche di ognuno di noi. Invece l'opera lirica è arte popolare, è arte pensata per il popolo, per una motivazione anche molto semplice e, se vogliamo, molto commerciale. Il primo teatro pubblico nasce nel 1637 a Venezia e la crescita dei teatri pubblici, avendo questo primo teatro un grande successo, è esponenziale. E a quel punto le compagnie, per poter pagare i teatri, i cantanti, le orchestre e tutti i materiali, sono costretti in qualche modo a fare i conti con quello che è il gusto popolare e il desiderio di spettacolo delle persone normali, delle persone come noi. Questo ha tra l'altro un effetto anche positivo, perché vengono studiati sempre nuovi effetti e sempre nuove scenografie, sempre più ridondanti, diciamo così, e sempre più luminose. Pensate a dei teatri completamente illuminati a candele, non per niente i teatri sono tra gli edifici che più vanno in fumo nei secoli passati. Da quel momento in avanti, sempre più spesso l'opera non viene più finanziata dai mecenati o dai nobili, tant'è che un autore come Mozart muore in miseria. Il suo Flauto Magico, ad esempio, che è una delle sue opere più belle, è un'opera fatta proprio per fare cassa. È una favola, una grande favola, ma in realtà dentro Mozart e Da Ponte, che è il suo librettista, ci mettono una serie di contenuti illuministici, di fratellanza e di uguaglianza, forse non con una coscienza politica così forte, ma comunque sono concetti che passano. Sicuramente invece, per arrivare pian piano ai giorni nostri, una coscienza politica più forte ce l'ha Verdi. Verdi nel 1848, mentre in Italia ci sono i moti contro la Restaurazione, è a Parigi e torna velocissimo a Milano perché non può perdersi questa rivoluzione, ci tiene tantissimo. E a tal proposito scrive a un librettista che è Francesco Maria Chiave, vi leggo due righe, una lettera dove scrive: figurati se volevo restare a Parigi sentendo di una rivoluzione a Milano, sono partito immediatamente ma non ho potuto vedere che queste stupende barricate. Il popolo lo vuole e se il popolo lo vuole non c'è potere assoluto che possa resistergli. A questo punto Verdi poi diventa anche l'acronimo di Vittorio Emanuele Re d'Italia e quindi viene la scritta Viva Verdi, diventa una scritta rivoluzionaria in tutta Milano contro gli austriaci. Arriviamo a Puccini che è l'autore dell'opera che vi presentiamo stasera. Bohème è un'opera su degli straccioni, su delle persone del popolo, su delle persone povere, su delle persone che non hanno mezzi. E è scritto sulla base di un libro che si chiama Scene della Bohème, ma in realtà siccome Puccini aveva vissuto una condizione simile quando viveva a Milano perché studiava al conservatorio e faceva parte del movimento degli scapigliati, è probabile, e comunque a me piace molto pensarlo, che quella Parigi che lui immagina e rappresenta in qualche modo sia la Milano popolare che lui aveva conosciuto. E a questo punto perché non arrivare a Conchetta, che è sicuramente un luogo che fa parte di un quartiere che ha rappresentato la Milano popolare da sempre ed è un luogo dove sicuramente chiunque ha sempre avuto accesso, indipendentemente dalla sua condizione sociale. In quest'opera troviamo dei temi che tutti noi conoscono. È la storia di un precario cognitivo, anzi due. È la storia di una proletaria che è una piccola artigiana e cerca di sopravvivere come può. Sopravvivono tutti in grande povertà. Forse l'unica che non sopravvive in povertà è Musetta, che è uno dei personaggi che troveremo nel secondo atto, che in qualche modo ci può far pensare a tutto un discorso di autodeterminazione della donna, perché è un personaggio assolutamente indipendente e che si ribella a qualsiasi tipo di eccessivo controllo da parte dei suoi amanti. Parliamo di sanità, perché Mimì è malata di tisi. La tisi in quel periodo mieteva vittime in maniera assolutamente incredibile e Mimì non si cura, è una malattia che in quel momento non si curava e che comunque sicuramente non si poteva curare in stanze gelide, situazioni diciamo così non confortevoli. Parla di energia, perché i due ragazzi che incontriamo nel primo atto non si possono scaldare se non bruciando le cose che stanno scrivendo o che stanno dipingendo. In una scena che non vediamo, perché ovviamente abbiamo avuto la necessità di ridurre quest'opera per renderla da un lato più fruibile anche da chi magari con l'opera non ha avuto finora molti contatti, ma anche per poterla rendere sostenibile da tutti i punti di vista. Si parla anche del caro affitti, perché c'è una scena in cui arriva il padrone di casa e chiede l'affitto e loro ovviamente non hanno una lira. E, insomma, è un'opera diciamo in cui troviamo veramente tante cose che ci appartengono, secondo me, e quindi in questo è molto più moderna di quello che si potrebbe pensare. Ciò nonostante, mentre in altre opere troviamo anche una forma di rivalsa, diciamo così, contro i potenti, in questa non c'è, è solo una favola romantica, e quindi abbiamo deciso anche di mantenere in qualche modo arredi e costumi che in qualche modo ricordano quel periodo, cioè la metà dell'Ottocento. E qui direi che possiamo andare a cominciare quest'opera in una stanza gelida, come potete vedere, in una Parigi d'inverno, appena prima di Natale. L'uno brucia in un soffio e l'altro spara. guardare. Ma intanto qui si gela e si muore di nebbia. Fuoco ci vuole, aspetta, sacrifichiam la sedia. Enrica! Trovasti? Sì! Buonuzza l'ingegno, l'idea mi chiama. Facciamo il mar rosso. Buonuzza la tela dipinta, il mio dramma, l'ardente mio dramma ci sta lì. Vuoi leggerlo forse, mi geni? No, il cene la carta si sfali, e le sorrivole si geni. Io resto per terminare l'articolo di fondo del castore. Thank you. Per castelli in aria Thank you. fuori da quella stanza gelida è Natale e c'è un gran caos. È proprio Natale di una città gaudente come Parigi. E anche i nostri precari che abbiamo incontrato, che esattamente come noi escono e vanno nei bar, comprano regali, cercano di godersi per quello che hanno il momento. E li ritroviamo al Caffè Momus e lasciamo a voi immaginare la folla che nell'opera originale li circonda. Bambini che passano, giocattolai, mamme che li rincorrono, gente insomma con la frenesia, un po' corso Buenos Aires il 23 dicembre, insomma, frenesia assoluta. Però noi in questa scena incontriamo in particolare, facciamo la conoscenza del quarto personaggio fondamentale per quest'opera, che è Musetta. Musetta è una ragazza decisamente indipendente, molto diversa da Mimì, che è molto romantica e dolce. Lei è un'estroversa, la conoscerete, e soprattutto è innamorata, il grande amore di Marcello. Thank you. niente che dirà. Oh, separar Tu sei geloso. Un poco. Colerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, congiunto. Lo fa incollerire, ma è poveretta. Oh! Sì, E a me di questo quadro appena passato in particolare mi... mentre da un lato mi colpisce la Musetta che ribadisce la sua totale indipendenza con grande coraggio per quel periodo, invece mi commuove molto Rodolfo quando dice: la mia stanza era una tana squallida, il fuoco ho spento, mentre la gira il vento di tramontana. Mimì canta e sorride e il rimorso mi assale, io cagione fatale del male che uccide. Si prende sulle spalle, no? Una colpa che in realtà non ha. Ecco, questo era così, giusto per dare uno spunto sui libretti d'opera che spesso sono il viatico per godersi delle tipologie di arte che può essere ostica e che invece con i libretti anche per i bambini, anche per i ragazzini diventa molto più facile. Ma andiamo avanti. I mesi sono passati, potremmo essere forse in questo periodo, in un autunno tiepido, diciamo così. Mimì e Rodolfo si sono lasciati, Musetta e Marcello si sono lasciati, e Musetta è sempre Musetta, e Mimì forse addirittura amoreggia con quel Viscontino di cui abbiamo sentito notizia nel terzo quadro, Piccola Nobile. La stanza è di nuovo lei, non è più gelida, non è più inverno, ma non è cambiata molto, né la stanza in sé, né la situazione economica. Nel frattempo però invece quello che ovviamente peggiora è la salute di Mimì. E qui andiamo all'ultimo atto. Saluto ridendo, Musetta gli disse: il cuor non batte, ma non lo sento. Grazie al venuto che copre. C'ho gusto da fare, c'ho gusto da fare. Loiola, ti rodi e ridi, non batte. Thank you. Musetta! No, no. Ascolta, pur aspetta. Grave. Non credo. Rosetta, sfida. Tranquillo. Che vuol dire? Quell'andare e venire, quel guardarmi così! Coraggio!